Buongiorno a tutti. Allora, siamo al lavato letto, capitolo 32, il titolo forse non ve l'ho dato. Il titolo è questo. Il titolo è Se ne ha amato un'altra, se ne ha amata un'altra, virgola, è stato per disperazione. Capitoletto, capitolo nostro, insomma, 32. Il 31 l'ho dato come titolo? Sì. Cos'era? Allora avete visto questo capitoletto in cui avvengono cose piuttosto clamorose, di cui forse però non potete avvertire, non avete preso il contesto, insomma, la portata, cioè si tratta di un colloquio probabilmente di Frédéric con Madame Agnew, e avete visto che piomba lì a un certo momento Rosanette. Perché Rosanette piomba lì? Rosanette piomba lì per avere dei soldi. Per avere dei soldi è da Agnew. La figura di Agnew è stata naturalmente oggetto da parte nostra di parecchie considerazioni, insomma, un farabutto sostanzialmente, uno che comincia, e qui è uno squisito spirito umoristico, sarcastico di Flaubert, che comincia con occuparsi di ceramiche, ricorderete, anzi prima ancora non mi ricordo nemmeno, no, prima non si occupava di ceramiche. Si occupava di editoria, si occupava di pubblicazioni, eccetera. Poi arriva le ceramiche e poi arriva a un certo momento, e questo è il colpo di genio, poi sapete certe cose, come o uno le gusta o no, e non c'è via di mezzo. Allora, il clima era di destra, lui aveva bisogno di farsi proteggere a lui, da chi dà il potere, Berlusconi, esattamente la stessa cosa, no? Allora la gente che si vende a Popolo della Libertà e tutto quanto, e lui ha pensato che gli sarebbe stato utile in quel tempo di bigotti, di devoti, vendere oggetti religiosi, pensato un po' a lui con gli oggetti religiosi, ma ha pensato che era un business che poteva riuscire utile. Che rapporto aveva con il denaro a lui? Questo è il punto. Agnew sostanzialmente aveva bisogno di denaro perché sperperava una quantità enorme con amanti occasionali e con investimenti sbagliati e aveva quindi bisogno di prestiti, aveva bisogno di prestiti. Allora il rapporto con Rosanette, che pure era una sua mantenuta, insomma, così, il rapporto con Rosanette era tale che aveva chiesto del denaro a Rosanette. Rosanette non era sfiducia e gli aveva dato questo denaro, ma lei adesso vuole rientrarne in possesso. Perché questo piccolo passaggio dovete conoscerlo? Perché c'è un personaggio, forse fortunatamente non abbiamo potuto accennarvi, ma quando leggerete il romanzo nella sua interezza io vi prego di dedicarvi una particolare cura, che è la Vatnas, che è una sinubile con un amante vorace, e una persona assolutamente insopportabile, che Rosanette dice di volta in volta che è sua amica o non è sua amica. Di fatto, a un certo momento l'educazione sentimentale, come una beffa per lo spunto iniziale, che era lo spunto romantico, diventa un libro di soldi. Nella seconda parte è una specie di orgia, di prestiti, di soldi, debiti. Flaubert era un po' ossessionato da questo, ma insomma il soldo diventa un fatto ossessivo. Allora la Vatnas ha chiesto un prestito, aveva prestato dei soldi a Rosanette, li vuole indietro. Rosanette a questo punto, per pagare la Vatnas, ha bisogno che Agnew la paghi lei, no? E quindi va a casa di Agnew, non trovandolo, come potete vedere. Una delle caratteristiche, come sapete, dei debitori è quella di essere latitanti e non farsi trovare, non trovando, ma ha bisogno assolutamente di questi soldi. In questo giro di prestiti, chi è che spesso ci rimette le penne? Chi? No, no, in questo giro di prestiti, del romanzo, qual è il prestito? Perché ha soldi inizialmente, voi capite che in questo modo i soldi vanno presto a sparire, evidentemente. E il suo scopo qual è? È quello di aiutare Arnold, perché ama Arnold intanto, perché disprezza profondamente Arnold, però Arnold è il proprietario, per così dire, della donna che lui ama. E quindi lui paga sostanzialmente, copre quelli che noi chiameremmo a Roma i buffi per poter avere a sé la donna. Questo aspetto grigio, un po' fosco di Friedrich, è opportuno che lo sappiate. Cioè non è che per generosità paga, lui paga semplicemente per tenere lontano delle persone, perché non gli rompano le scatole, oppure perché l'oggetto d'amore, l'oggetto d'amore, rimanga presso di lui, no? Ecco, è quello che stavo pensando, mi stava venendo in mente un'idea, mi ha folgorato in mente l'idea, che a volte certi pensieri amorosi, sono come gli oggetti transizionali di cui si parla in psicologia e psicanalisi, oggetti transizionali, si chiama, che ha inventato Winnicott, un grande studioso. E cos'è un oggetto transizionale? Lo capite immediatamente. Un oggetto transizionale è un orsacchiotto. È l'animaletto di peluche che la zitella tiene sul letto. Non so se voi avete pratica di zitelle, ma specialmente quelle di un tempo, avevano le zie, le nostre, avevano sul letto tutti questi animaletti di peluche. Alcuni li tengono in macchina, appesi come coglioni, lì allo specchietto retrovisore della macchina, e li toccano, ma perché li toccano? Perché ti dà un senso di conforto. L'oggetto transizionale è una cosa fondamentale nella nostra vita. L'oggetto transizionale può diventare la sigaretta che tu sbucci, un'altra parola romanesca, voi non essendo romani non la sapete, ma avete presente quando una sigaretta, un sigaro preferibilmente, o una pipa, non la si fuma ma la si smanetta sostanzialmente, ecco. Allora perché? Ma questi sono oggetti concreti. Che c'entra questo con Malabarba? C'entra sì. Perché quello che noi crediamo sia un pensiero d'amore tanto puro è semplicemente l'orsacchiotto che ci tiene tranquilli. Chiaro quel concetto? Quella che noi crediamo che sia la nostra Beatrice è l'orsacchiotto, che questa è una frase degna del professor Lara. Vorrei che lei apprezzasse tutta la sua grandezza. E anche questa ragazza che voterete oggi è qua, sebbene questa sia una deputata. La storia. Noi crediamo che sia molto alto il nostro oggetto d'amore. Ma che c'è di alto nella vita, dice Flaubert? Niente. E questa è la lettura sottile e difficile che occorre fare, ma che bisogna fare, dell'educazione sentimentale, che è un grande libro sulla disillusione. È certamente un libro in cui si parla dell'amore, sommamente, ma perché proprio l'amore ci dà le maggiori delusioni, le maggiori disillusioni. Venendo alla scena che ieri abbiamo considerato, scena splendidamente teatrale, romanzesca, vi voglio segnalare il fatto che Flaubert si era cimentato con il teatro con scarsi risultati, perché lo candidato l'ha scritto, una cosa per il teatro, perché in realtà insomma la sua scrittura è proprio questa creazione insostituibile dell'umanità che è il romanzo, il raccontare una storia divisa in capitoli in cui c'è un personaggio o due o tre personaggi principali e gli altri stanno attorno. Questa scena è comunque drammaturgicamente perfetta. Arriva Friedrich, chiede di Madame Arnoux non c'è, ma c'è lui entra, e a questo punto i rapporti fra i due sono cambiati, non sono più quelli di prima. E quando c'è una relazione amorosa, attenzione prego, quando c'è una relazione amorosa, basta un non nulla perché il tono della relazione cambi, si abbassi o si alzi. Una freddezza, una trascuraggine, un non sentirsi, un non vedersi. È una vecchia legge che gli affetti debbano essere coltivati come giardini. Questo vale, per esempio, nel caso di un'amicizia. Se tu un amico non lo coltivi, non lo coccoli, possiamo proprio dire così, non lo coccoli, l'amico scompare. E con tante volte ve l'ho detto, io pensate solo che un ragazzo alla vostra età non va a mettere tanti numeri sul telefonino, una volta c'erano le agendine, adesso non più, e poi questi numeri, molti, diventano numeri non più chiamati e che non ti chiamano più. Perché? E perché non c'è una volontà di coltivazione. Tutto deve essere coltivato, ecco, coltivati, mi stanno venendo in mente delle strane cose, insomma, delle strane cose, perché che cos'è che viene usato per coltivare una pianta? Il letame, ecco, e allora quindi trovo come un'amicizia si coltiva con la merda. E pensate invece, al di là della crudezza dell'espressione, come questo è vero, la si coltiva con delle anche falsità. Cioè, se tu cominci a dire all'amico, parlo di voi ragazza soprattutto, trovo che il taglio di capelli che hai fatto non sia tanto grande, come credevo che fosse, in realtà ti rende gli elementi troppo duri, spigolosi. Insomma, l'amica conserverà, dopo aver speso un sacco di euro, un senso di sottile ancora nei miei confronti. La verità offende, la sincerità sempre offende, naturalmente. La bugia è quella che ha salvato l'umanità, mia vecchia condizione, no? E soltanto l'ordine sociale impone di dire che la bugia non è male, no? Ma insomma, senza menzogna, così non è possibile vivere. Insomma, questo è veramente dirlo senza farsi moralismo. Ma tornando appunto alla... Se non lo coltivi con delle palle, l'affetto, come sei bella quest'oggi? Sei particolarmente bello. Poi quando avete detto, in realtà uno si persuade che forse un po' di verità c'è. Ecco, non ho mai amato, non ho mai fatto l'amore con nessuno. Avevo una collega che un giorno, perché è qui, le 5, in facoltà, naturalmente di cui, che con il compagno di straniero che non hai mai fatto l'amore con nessuno come con me, e il compagno che era uomo, amicus platos, magis amica veritas, nel mentre disse ma questa e lui disse, no, non è vero, ci sono altre con cui andavo molto meglio. Lei non lo riferì, il fatto. Lei non lo riferì e lo riteneva però una forma di virilismo da parte sua, questo aver detto la verità, nonostante tutto. In realtà tutti gli affetti amicali e amorosi sono intessuti di azioni, di carezze, di falsificazioni, tant'è, questa è la natura umana. Adesso i due non si vedono più in fondo, e quindi sono raffreddati, come si suol dire, l'un con l'altro. E allora si arriva al punto che Arnoux, di cui sapete la moglie diceva peste e... Adesso il fatto che sia uscito la sera, lui impacciato, come tutti i maschi rigorosamente sono impacciati, assai più delle femmine, in queste condizioni, dice, ah, com'è che non c'è, ah, dice con quelle risatine imbarazzate, perché ha ripreso le sue vecchie abitudini serali. Lei in altre epoche aveva detto, sì, un uomo da poco, invece in questa occasione dice, beh, un gran lavoratore normale, che dopo tanti calcoli, la sera si riposi. Tra l'altro questo dimostra la scioccaggine che aveva Arnoux, perché Arnoux faceva calcoli, sì, ma non era matematico. Però lei, come sapete, lega l'attività maschile a delle cose precise, o i calcoli, forse faceva anche calcoli commerciali, oppure le cose che odia les affaires. Dice, ah, sto molto studiando, ah, capisco, gli affari, ma come sto studiando? Vattò suo marito. Questa è l'estrema difesa delle donne sposate che amano dopo che sono state trascurate dall'amante. Ricordatevi quello che vi dico. L'estrema difesa è che per vendicarsi sottilmente dell'amante trascurante cominciano a parlare bene del marito. dello stesso marito verso il quale avevano avuto espressioni di forte rampogna. Ma adesso che l'amante le trascura, cercano di dire: no, con mio marito va benissimo, va benissimo. Vi dico sempre, queste sono cose che si imparano tra l'altro da Flaubert, questi, insomma, quando una donna comincia a parlare bene dei figli e parla in seconda istanza bene del marito, vuol dire che il marito va male. Questo per cercare di insinuarsi, lo dico ai maschi presenti, nelle vite delle persone sposate. Che cosa sta facendo lei? Perché cosa dici? Cosa ti trovi imbarazzato con questa signora? Che cosa sta facendo lei? Sta rammendando tutte le brave massaglie, tutte le brave donne di famiglia rammendano, aggiustano, no? Forse avete memoria, non dico le vostre mamme che sono giovanissime, sono ragazzine, vi mette ancora, ma le vostre nonne, bisnonne. Dormono tutto bene. Lo so, ha chiesto di stoppare il momento. Come dite che sono sempre amicale nella la futura, non vorrei esagerare, allora poi dici: che cosa sta facendo? Dice: una, sto facendo una, aggiustando una listina per mia figlia. La figlia era una ragazza scontrosa, l'avevo mandata in collegio, sapete che ancora ai miei tempi i bambini, adesso non si usano più queste cose, quando erano un po' cattivi, loro gli si denunciavano la maestra. Io mi ricordo la maestra bravissima, la mia zia, figlia di buona donna, diceva: ah, hai mangiato la carne oggi, lo dico alla maestra, bastarda, lei e la sua memoria. Oppure se tu la facevi grossa, allora dicevano: vai in collegio. E il collegio significava, per l'educazione di un tempo, botte, frustate, bacchettate sulle dita, tanto che le cose di adesso, sgabuzzini bui in cui dovevi rimanere chiuso con degli scorpioni tra i piedi, capisci? Cosa del genere. Una mamma deve fare la mamma, e vedete qui lei che sta aggiustando la vestina, e lui chiede: non la vedi il collegio, eccetera eccetera. Allora lui prende un giornale. Guardate come si va, come tutto è prevedibile. Cosa fa a questo punto? Uno prende il giornale, lo guarda, fa qualche osservazione, dopodiché dice: che tempo che fa? È un tempo di pioggia. E però questo pretesto della pioggia gli torna assolutamente utile. Perché gli torna utile? Perché fu per un fatto probabilmente di maltempo che Madame Arnoux non era venuta al famoso appuntamento. Io non so se ho avuto modo di spiegarvi perché non era venuta Madame Arnoux. Ve l'ho detto già. Ah, è per quello, mi sembra. Madame Arnoux non era venuta perché il bambino si era andato e Flaubert, che ci sguazza in queste cose del corpo, ed era figlio di un medico, aveva visto da bambino che si divertiva a vedere autopsie, ci racconta questo bambino che sta male, con un gusto infinito, la gola scoppia, gli occhi sono strabuzzati, la temperatura è a 50,2, il bambino sputacchia sangue, insomma che più ne ha più ne metta, tutto con grande verosimiglianza, ma effettivamente fa accattonare la pelle. Ma quando Flaubert prende in mano il corpo umano, ne va scempio. Il corpo di una donna, il corpo di un uomo, ne fa scempio. E quindi qui c'è il bambino che sta male. E cosa fa una donna pia? Pia, perché la pietas religiosa era la cultura del tempo. Se il bambino sta male, secondo voi cosa fa? Ha un voto alla donna. Dice: ah, ma se questo bambino... Il bambino si salva. A un certo momento, miracolosamente, e devo dire anche prendendo in giro il lettore, la gola si sgonfia. Le guance tornano. La temperatura scende da 52, 3, quanto era arrivata, eccetera, 32, la temperatura reale. Il bambino sta bene, respira regolarmente, eccetera. E lei dice: stupidità di Madame Arnoux, questo è un segno di Dio. Si è salvato, ma mo, non dice proprio mo perché lo diciamo come lo dice voi, ma mo devo mettere la testa a partito, quindi non vado all'appuntamento con Federica. Non conosceva, o forse non avrebbe conosciuto, non conosceva il numero di telefonino di Federica per avvertirlo che non andava all'appuntamento, ma gli sembra che anche se l'avesse conosciuto non l'avrebbe usato. Era molto più dignitoso assentarsi, una sorta di monacalità dello spirito. Era molto più giusto. Frederick poi soffriva le pene dell'inferno. Vedete come in certi casi voi conoscete almeno un caso in cui per fare un voto alla Madonna una persona renda grande infelicità al partner. Qual è questo caso? Qual è? No, no, un caso in cui un romanzo, un celebre romanzo, in cui una si come si sposa. A questo punto Federica gli tiene conto, no? E gli dice, oh, il maltempo invece non gli ha prodotto lo stesso effetto su di me, perché io mi infischio, eh? Io mi infischio, io sono disposto a fare qualsiasi cosa per voi. E allora lei lo dice in modo disarmato, avevo paura per il mio bambino, e gli raccontò la malattia del piccolo Eugenio. Tra l'altro, siccome voi siete figli, ma dovete diventare più figli, se no ci siete stati a farlo, e soprattutto con me, cioè una persona come me, andate da qualche altro professore, no, più giù di livello. Eugenio, ma perché si chiama Eugenio? Dimmi se viene in mente qualcosa. Ma no! È andato Eugenie. Poi quello è un romanzo di Balzac. Perché lui si chiama Eugenie? Avete qualche ricordo in mente? Siamo intorno al 1848. C'era stato un Eugenie in Francia? No, no. Uno di potere. Beauharnais. Della cerca napoleonica. Quindi aveva dato un nome di potere. Questo in questo momento mi è venuto in mente. Oh, non da caso si chiama Eugène, non Antoine, neanche. E allora lui subito dice, sentite come risponde, seguitemi sul testo. Grazie, grazie, un punto più, diamo come sempre. Ora, se era tutto incavolato, vi potrà un po' sembrare curioso che immediatamente appena gli dice, mio figlio, ciao, grazie, grazie, grazie. Come mai? Finezza da osservare. Perché chi è arrabbiato con la persona amata non aspetta di meglio che non essere più arrabbiato. Quindi, come la infinita malafede che distingue l'essere umano, quando la persona amata ti dice, ma tu mi hai tradito, bastardo. No, non ti ho tradito, ma mio cugino. Senza assolutamente accertarsi se quello fosse o no il cugino, se quello fosse una persona di copertura o altro. Noi vogliamo star bene. Nell'amore, in realtà, uno ha, voglio dire questa è un'osservazione tipicamente mia, quindi di Flaubert, ma insomma, potremmo anche concederla a Flaubert. Nell'amore uno vuole star bene per sé, non per l'altro. Quindi non mi farà soffrire. Questo è il sottotitolo di tutti gli amori. Fammi godere e non mi far soffrire. Poi la tua felicità può venire dopo, può venire dopo. Questa è la realtà terribile di tutti gli amori. Non mi far soffrire, fammi godere e se vuoi non farmi soffrire. E allora a questo punto lei dice, terzo elemento di volgarità di Madame Arnoux. Stavo pensando che questo rappresentare la volgarità di un oggetto d'amore, io ricordo un'anima di mio padre che era un uomo molto colto e si laureò nel quando si laureò nel 1500, praticamente all'inizio, e era stato appena scoperto l'America, sostanzialmente, sull'educazione sentimentale, se lui, che era una persona molto romantica, avesse sentito questa decretazione civica che sto facendo, questa civica, lui l'avrebbe avuto stressò di fronte a questo. Ma non è dubbio che lei sia proprio una donna molto normale, diciamo così, perché a un certo punto dice: no, non è come prima, dice lei, voi dimenticate l'altra. L'altra è una parola feuilletone, una parola soap opera, no? L'altro, chi è l'altro? L'altro è l'amante, è il terzo, la terza, no? Però non si vuole parlare. Quando una donna in particolare si sente offesa in un tradimento possibile, non nomina l'altra. Ecco, ricordo una persona che a un certo punto io avevo fornito il pretesto di dire che una persona che telefonava, e questa mi diceva: allora la telefonista, ma un nome cognome? Ah, no, no, io non la nomino. Le donne disprezzate, o perlomeno che si credono disprezzate, hanno un'ira che può smuovere il mondo. Hitler, al confronto, diventa degno Nobel per la pace. Nobel per la pace, cioè una cosa bellissima che mi viene in mente in questo momento, che vi raccomando di annotare, attribuita a Shakespeare, ma non è di Shakespeare, è sicuramente di un elisabettiano, forse di un giacomiano, perché è troppo di grande grosso per essere di Shakespeare, ma sentite, forse l'ho detto a qualcuno di voi, ascoltate bene, there's no fury like a woman scorned, non c'è furia come una donna, like a woman, scorned, disprezzata. Non c'è furia come quella, there's no fury like a woman scorned. Sicuramente non è Shakespeare, anche se è stato attribuito a lui, ma è di altro scrittore. Poi Lecter Archita Middleton, non lo so. Conoscevo la letteratura inglese? Sì, la conoscevo. E allora le dà questa spiegazione, dice: non devo niente, sono un miserabile. E sentite questo capoverso, dice: se l'aveva avuta, era per disperazione, come ci si suicida. Questa frase secca, perfetta, solenne, alta, secca, perfetta, solenne e alta, è Flaubert. Se aveva posseduto questa donna, era per disperazione. Come? Ci si suicida. E noi qui proprio tocchiamo l'esperienza di ognuno di noi. Quando voi siete ancora agli inizi della vostra splendida, mi auguro, avventura di vita, ma a un certo momento troverete qualcuno che vi rifiuta e che voi amate. E in quel momento in cui vi rifiuto, magari lo amate 3 volte di più, 4, 5 volte di più, diventa Dio, diventa tutto. E poi però bisogna pur vivere, e allora troverete un qualcuno, e questo qualcuno cercherete di farvelo piacere. Ecco, e l'avevo inventata la terra si intrempa, perché l'avevo scritto una volta, la terribile sindrome dei 30 anni della donna, quando una donna comincia a sentire che il terreno le scivola sotto i piedi, allora comincia a guardarsi intorno in modo vorace per avere qualcuno, e si dice: questo è il meglio di tutti. E poi si pensa: ma come faccio a dire che è il meglio di tutti quando il meglio è perduto ormai per sempre? E allora dice che aveva ceduto per disperazione. Tutto il mondo, mi è venuto un bellissimo pensiero in mente. Sentite questo pensiero, questo è proprio mio, è assolutamente. Voi sapete che tutti si separano, no? Tutti si separano. In una classe di bambini, vero è questo, 7 su 10 sono figli di genitori separati, e gli altri 3 non si sa quali sono i rapporti coniugali in casa, insomma. Amici con cui ho parlato delle mie lunghe esperienze di vita interiore, eccetera, che dicevano: nessun matrimonio funziona, e tutti si separano, in un modo o anche separati in casa. Poi ci si sposa, secondo matrimonio. Domanda: quanti secondi matrimoni conoscete che siano falliti? Pochi. Questo è sconvolgente. Ma perché? Perché prima si era ciucci, e poi si è diventati sapienti nello scegliere l'importante? No! Perché c'è la même chose. Perché si è capito che ormai non puoi continuare indefinitamente a scegliere. E allora ti fai piacere il secondo consorte, la seconda consorte. Magari con la bava alla bocca, poi a un certo punto inghiotti la bava, ti bava, non ne hai più poi da buttare via. E quindi resti in silenzio per il resto della vita. Ma il secondo matrimonio piace per disperazione, spesso. Allora beh, ci sono anche degli aggiustamenti possibili in positivo. Quindi, a questo punto dice, potevate credere, dice lui, che io non tornassi più? Dice, no, dice lei, con una voce carezzevole. Ecco, una voce carezzevole. Cioè, noi a volte non possiamo esprimere il nostro sentimento a una persona con parole, con frasi, no? Perché non riusciamo, non osiamo. È chiaro? Lo esprimiamo il sentimento che abbiamo detto con il tono di voce. Questo vale in positivo, frase d'amore, ma vale anche in negativo, perché a volte tu non puoi esprimere l'odio che hai per qualcuno verbale, però glielo fai, glielo mastichi in bocca quest'odio, per così dire. E lei con voce carezzevole dice: no, a dispetto di tutto, io sentivo in fondo al mio cuore che ciò era impossibile, che un giorno un ostacolo. Guardate questa mentalità cattolica e borghese, sentite questi elementi. Tutto è impossibile, o è ostacolato in fondo al mio cuore, cioè tutto è profondo e terribile. Questo insomma è il regno della passione. Il regno della passione ha bisogno di ostacoli e di impossibilità. Non dimentichiamo che la parola passione non si dimentica, che noi facciamo, identifichiamo con grande amore, no? Passione viene da patio, pater, spasso su, pati in latino. E patio vuol dire soffrire. Quindi la passione è anzitutto sofferenza. Ecco come si spiega che qui vengono usate con tale dovizia queste parole dell'impossibilità, no? Della profondità e dell'impossibilità, a dispetto di tutto, sentivo che questo era impossibile e che un giorno l'ostacolo tra noi sarebbe svanito. Diciamo che in questa frase di Madame Arnoux c'è una specie di sintesi della sensibilità romana. Se voi disegnate con una crocettina questa frase, a dispetto di tutto, in fondo al mio cuore, impossibile che un giorno lo spangolo tra voi sarebbe svanito, questa è la sensibilità romana. Bene, basta. Non c'è nessuno che accende questo libro, eh? Anch'io, avevo bisogno di voi e di vedervi da morire, insomma. Queste frasi fanno sì che i due si accendano l'un l'altro, naturalmente. E subito raccontano di un episodio, di un incontro. Quando due non sono più insieme, l'incontrarsi, voi lo sapete certamente, è una cosa spaventevole. Perché da una parte inizialmente si muove a ogni costo incontrare l'altra persona, per cercare di far sì che tutto sia stato una specie di brutto sogno per riappattumarsi, ma se passa un po' di tempo, l'amore diventa un qualcosa che ti spinge, esattamente come un polo positivo e un altro polo si spinge, si respingono, no? E per cui tu non vuoi più incontrare. Per i primi 15 giorni, dico così per dire, tu cerchi di rincontrarlo, ma dopo 15 giorni, e man mano che si va avanti nel tempo, hai orrore, paura fisica di incontrare l'altra persona. Fai di tutto per rincontrarla, se sai che c'è un punto di incontro possibile, lo eviti, per capisci? Gomiti. E però quando capita che si sia un incontro, questo punto diventa un altare, un luogo magico, un luogo misteriosamente magico. Allora, anche se l'ha incontrato a un bar, ecco, e l'ha incontrato in un posto che è il più antiromantico possibile, cioè il bar dell'università, immaginate, alle 1:30, che cosa c'è di più? Mettiamo che tu gli incontri in lui o la lei, no? Tutti spintonandosi per cercare di prendere voracemente un panino, una pizzetta, una cosa del genere, tu incontri lui o lei, a parte il fatto che ti passa il pedino. Ecco. Ma soprattutto sei sconvolto, ti volti dall'altra parte, fingi di non vedere, insomma, no? Ecco. Però tu ti ricordi di quell'incontro, all'arma se te ne ricordi, e quindi si ricorda un incontro a Palais Royal che c'era stato. E questi incontri lo tesaurizzano, perché noi tesaurizziamo dentro di noi gli incontri con la persona amata. E a questo punto lei dice una delle cose più belle dell'educazione sentimentale. Dice, io, dice questo. Leggiamo questa frase qua, sono un ragazzo, dice lei, e allora lui si lascia dire dal fondo del cuore, la verità umana di tutto questo è bella come un verso di Dante, dice questo, la mia vita è triste, e lei risponde, è la mia. Se non ci fossero che i dolori, le inquietudini, le umiliazioni, tutto quello che sopporto come sposa e come madre, poi chi si deve morire non mi lamenterei. Quel che c'è di spaventoso è la mia solitudine senza nessuno. Ma io sono qui, io, oh sì, un singhiozzo di tenerezza l'aveva come sollevata, le tue braccia s'allargarono e si strinsero in piedi in un lungo bacio. Se voi leggete queste parole 100 volte, 1000 volte, ne risentirete la perfezione adamantina. Perché la perfezione adamantina? Perché nel modo più essenziale riescono a dire una verità umana incredibile. Cioè, dice lei, è una donna. Le donne sono storicamente, per motivi culturali e quasi antropologici, abituate a soffrire. La soglia di una sofferenza in una donna è assai più alta che un uomo. Per un calcetto un uomo piange, una donna sopporta i dolori del parto, sopporta i dolori delle mestruazioni, una cosa che si dice spesso, se un uomo dovesse ogni mese sopportare le mestruazioni, insomma, è difficile pensare quello che direbbe, anzi è molto facile pensare quello che direbbe. E quindi parla del suo dolore e dice, se ci fossero solo i dolori io li accetterei, dice, poiché si deve morire. Questa è una frase molto religiosa, cioè siccome dobbiamo morire questa vita è una prova, quindi sentite anche in queste sfumature la qualità culturale di Madame Arnoux, no? La qualità culturale quando appunto la religione è sempre presente, avete visto anche il fatto del bambino, avete visto che parla degli ostacoli, di tutto quello che è la fenomenologia della passione quando si rivolge a se stessa. Dice, ma la cosa spaventosa. E lei usa una parola fortissima, affreux, è essere soli, essere soli. Cos'è te? Nella vita scoprirete che la solitudine non è la cosa, non è la cosa peggiore, è una cosa spaventosa la solitudine, ma non è la cosa peggiore. La cosa peggiore è la compagnia, può essere la compagnia. E però la solitudine è talmente un cancro terrificante, senza nessuno, e lui dice, ma io ci sono qui. E a questo punto lei ha un singhiozzo, e come spesso accade nei bambini, ma anche negli adulti, un poco di pianto ti fa star meglio dopo, è un dato quasi meccanico. E allora, guardate come i corpi agiscono in modo quasi spontaneo, perché le braccia si allargano, le braccia di lei si allargano, e allora si stringono in piedi in un abbraccio, in bacio. Dai quanta importanza a questo avverbio, debout, in piedi. Perché? Perché vedete, è come un atto, lo vedo in questo modo io, no? È come un atto sacerdotale. È come se fossero due sacerdoti del dolore. Il sacerdote celebra il rito religioso, la messa o altro, non stando seduto in poltrona, ma stando in piedi. Non solo, ma è come se volessero elevarsi. Questo abbraccio non può essere dato su un sofà. Questo abbraccio può essere dato solo lì dove si trovano, in piedi. Si stringono in un lungo bacio. L'abbraccio non basta più ormai. E il bacio è una fase avanzata. Potrebbero dire che si strinsero in un abbraccio, ma non dice così. Si strinsero in un bacio, cioè solo nella penultima soglia prima del contatto. Del contatto fisico. A quel punto un cipolino gli avverte che c'è qualcuno, scena teatrale. La persona è Rosanetta. Rosanetta, adesso che l'amore si è ricostituito, Rosanetta, fai piedi. E lei ha solo questi occhi smisuratamente grandi nell'osservare Rosanetta, non sa che cosa dire. E Rosanetta è fredda, implacabile, perché vuole i soldi. E vede che Frederick, il suo Frederick, è lì, l'uomo con cui lei, Rosanetta, convive, fa amore, è lì. E gli dice, andiamocene a casa. E questo fatto che glielo dice davvero del tu, questo è intollerabile, che gli dia del tu. È proprio un segno di beffa, questo dà del tu. Lo vede, vede lei, che scendono dalle scale. Madame Arnoux vede loro due che scendono dalle scale. Il re del rido preso acuto, disperato. Segnatevi questa espressione, rire acuto disperato, perché in un'altra occasione Madame Arnoux ride, ma questo riso acuto disperato è il riso, quando muore, di Madame Bovary. Flaubert usa la stessa espressione. E lui va in carrozza, potete immaginare con quali sentimenti torna a casa in carrozza, potete immaginare. Era stato lì per prendere. E questa bastarda di Rosanette viene a rompere l'uovo nel paniere, viene a offenderla. Ed è quello che abbiamo già detto ieri. Lei dice, dov'è il male in quello che ho fatto? Tu sei dalla parte del torto, tu che frequenti le donne oneste. Lui cerca di colpirla. Lui cerca di darle un pugno e a questo punto lei rivela. Attento a quello che fai, perché sono incinta. Incinta, evidentemente, di... Fermiamoci qui, 5 minuti, poi riprendiamo. Siamo? Dunque, dovete... 1, 2, 3 pagine, il capoverso del nuovo capitoletto è... Il ne prouvait pas à ses côtés ce ravissement de tout son être. 395. Il titolo del capitolo 33 non ce l'ho, adesso lo vedo. Un amore difficile. Insomma, anche con Rosanette finisce male. cioè è riuscito a perdere sul fronte di Madame Arnoux e al tempo stesso si sente ormai pieno di rancore nei confronti di Rosanetta, con il fatto però che Rosanetta aspetta un figlio da lui e quindi le cose cambiano, è un ginepraio assoluto. E qui la donna di cui più volte abbiamo parlato, la terza donna, si affaccia ed è Madame d'Ambreuse. Vi rammenterò che la Madame d'Ambreuse era moglie di Monsieur d'Ambreuse, uomo ricchissimo, potentissimo, che aveva passato la vita a far soldi in modo indegno, era proprietario di tutti i mezzi televisivi di allora, di tutte le reti televisive di allora sostanzialmente, governava la stampa, si può dire. E Madame d'Ambreuse, i d'Ambreuse, ricorderete, avevano un apostrofo tra Di e Ambreuse che indicava le loro origini nobili, ma poiché i nobili non erano più di moda, ma i borghesi erano di moda, a questo punto hanno tolto l'apostrofo e si sono chiamati d'Ambreuse. Era più comodo essere borghesi. Notate che è abbastanza interessante, mi sta venendo in mente questo, che degli aristocratici, Flaubert non parla male, ma non perché siano particolarmente graditi a lui, no, come potevano essere graditi in altro tempo, in un'altra epoca, appunto. Non parla male perché il potere è dei borghesi. Noi non possiamo intendere Flaubert senza questa rabbiosa, ironica, sarcastica, requisitoria contro la borghesia. E vi ho parlato a suo tempo di che cosa significava borghesia, da borgo, eccetera, lavoro autonomo, eccetera. La signora d'Ambrosio è una bella donna. Una bella donna ancora nel fiore degli anni, sebbene naturalmente non sia più una ragazzina. È una donna, come molte donne ricche, annoiata. È una donna difficile, non è una Rosanetta. Quindi per un giovanotto, come lui, è difficile conquistarla. Ma è questo, in fondo, che è uno stato di scoraggiamento che rende in qualche modo interessante la cosa a lui. E questo capoverso, questo capitoletto che leggiamo, dice così, che vicino a Madame d'Ambreuse, lui non provava dal canto suo, vicino a lei quel rapimento di tutto il suo essere che lo trascinava verso Madame Arnoux, né il disordine allegro in cui l'aveva messo all'inizio Rosanetta, ma la concupiva come una cosa anormale e difficile, perché lei era nobile, perché era ricca, perché era bigotta, pia, perché era pia, devoto, figurandosi che dovesse avere delicatezze di sentimento, rare come merletti, con amuleti sulla pelle e pudori nella questione cosa. Come si sarà sentito dopo che ha intinto la penna nell'inchiostro, la penna d'oca, scriveva con la penna d'oca, e aveva pudori nella depravazione. Lui si servì del suo vecchio amore, del vecchio amore, e le raccontò, come ispirato da lei, tutto quello che Madame Arnoux un tempo le aveva fatto sentire, i suoi languori, le sue apprensioni, i suoi sogni. Basta, volevo semplicemente limitarmi a commentare questo passo, però significativo, che indica il rapporto che lui ha, che comincia ad avere con Madame d'Ambreuse. Non aveva quel rapimento. Quando uno è innamorato, come Frédéric lo è, di Madame Arnoux, si è, e qui le parole sono pietre, le parole devono essere proprio aumentate nella loro ricchezza e si è rapiti. Ma questo veramente è tanto. Aspetta, mi spostiamo. Si è rapiti. Oh, cosa vuol dire rapito? Rapito. Rapito quando uno è portato via, no? Cosa vuol dire io rapisco una persona? La porto via senza la sua volontà, no? E quando uno è davvero innamorato, è portato via al di là della sua volontà. E se continuiamo in questo bellissimo concetto, essere innamorato vuol dire essere portato via. Girando su questo termine potremmo trovare delle cose molto interessanti, no? Ci sono delle lingue in cui essere innamorato significa cadere insieme, tomber amoureux. Cioè, l'innamoramento è una caduta, è chiaro? Ma in inglese, to fall in love with somebody, no? Tenendo conto che to love non vuol dire amare in inglese, come sapete. Vuol dire semplicemente scegliere, voler bene, per cui in senso poi esteso, I love you vuol dire quello che sapete. Ma to fall in love with somebody vuol dire cadere nell'amore con qualcuno. Nell'italiano, enamoré, questa è francese anche, vuol dire andare con, in, è una preposizione che regge l'accusativo, quindi vuol dire andare contro qualcosa. Girando un po' con le parole intorno a questo concetto, capiamo assai bene come quando uno si innamora viene portato via, cioè c'è qualcosa di violento. E lui viene portato via, nel caso di Madame Arnaud. Però l'amore non è solo essere portati via. L'amore può anche essere qualcosa che ha a che fare al limite nemmeno con la persona, ma con la sensazione che te ne viene, il disordine allegro in cui l'aveva messo lì per lì Rosanette. La vita di ognuno di noi prima dell'innamoramento è una vita tendenzialmente ordinata, va bene? Ordinata, ordo in latino, sono le cose che sono messe una dopo l'altra. E infatti noi abbiamo i nostri amici, le nostre telefonate, le nostre piccole abitudini. Quando arriva l'amore, l'amore può portarci, questa è una variazione naturalmente, può portarci invece, anzi non può portarci, ci porta un disordine. Smettono gli amici soliti, consueti. Per esempio, si incontrano gli amici del partner, si frequentano quelli, si cambiano le proprie telefonate, il ristorante in cui si va, il bar in cui si va, i propri gusti. Questo disordine che porta all'innamoramento viene percepito spesso come vita. Perché è qual è una delle ragioni per cui la vecchiaia è così triste? Perché la vecchiaia è ordinata, perché facciamo le stesse cose, sempre, no? E chi è che cos'è che noi speriamo? Speriamo un soffio di vitalità nella nostra esistenza. Madame Bovary sperava che in fondo al viale diritto che stava davanti a casa sua, alla svolta in fondo, dalla svolta venisse qualcuno a portarne della vita. Il disordine è quindi ben visto da noi. E questa è un'altra tipologia dell'amore. Una è quella che ti rapisce, un'altra è quella che ti dà un allegro disordine, è il caso di Rosanetta. La terza cosa è che può essere difficile, anormale e difficile. Perché anormale? Questo veramente mi infastidisce. E d'altra parte io non posso. Aspettate un poco, vado a vedere se dietro forse, ma intanto non cambia mica niente. Non cambia mica niente. proviamo. Boh, vediamo. Perché è una cosa normale e difficile? Boh. È una cosa normale e difficile perché lei è ricca. Perché è nobile. Oggi come oggi le barriere, come dire, sociali ed economiche hanno forse un minor peso. Una volta erano essenziali. Lui, Moreau, Frédéric, non è nobile. La sua ricchezza è incomparabile a quella di Madame d'Ambreuse. Ma direi che un altro elemento, lui è un uomo non piazzato nella società, lui è un ragazzo, lui è uno senza professione. Dall'altra parte c'è una donna che invece ha un suo status. Conquistarla sarebbe importantissimo per quella che si chiama l'autostima, per l'immagine che ne avrebbe. Molti decidono una storia amorosa per motivi di, come avrebbe detto Stendhal, per motivi di vanità. Questo è quello che Stendhal in De l'amour chiama amour vanité. Non ti interessa la persona, ma ti interessa il significato che assume la persona. E qui c'è qualche altra cosa, oltre che il significato che assume la persona, c'è un'altra cosa importante da dire. Lui si figurava le delicatezze del sentimento, perché, vedete, amare una rosanette significa fornire del suo corpo, ma le delicatezze. Le delicatezze. Ma le delicatezze sono come il corpo, più del corpo. E certamente da rosanette non poteva sperarle. Quanto a Madame Arnoux era un oggetto intangibile. E sperava anche qualcosa di bizzarro e strano, perché quando uno è abituato a donne comuni, sa che cosa si aspetta da queste donne comuni. Ma se io faccio l'amore con una donna difficile, posso pensare che questa abbia delle sofisticatezze amorose che nessun'altra mi potrebbe mai dare. Posso pensare che abbia degli amuleti sulla pelle. Questa buffa cosa, degli amuleti sulla pelle, mostrano il credito che lui dà a una persona difficile, che Frédéric dà a una persona difficile. E poi c'è un'altra cosa che lui spera, diciamo così. Ma guardate come il crescendo è sempre umoristico. Quando Flaubert schiaccia sul pedale della ridicolizzazione del personaggio, va avanti. Allora comincia a dire che lui vuole una donna difficile, comincia a dire che questa donna potrebbe dargli delicatezze particolari, continua dicendo che questa donna forse ha degli amuleti sulla pelle, naturalmente però bisogna metterla nudo per vedere gli amuleti sulla pelle, e continua per parlare dei suoi pudori nella depravazione. Questo è bellissimo. Tutti vorrebbero avere a che fare con una donna libera sessualmente. Oggi il discorso è molto diverso perché la libertà sessuale si conquista da parte delle donne fra i 3, come vi ho detto, e i 4 anni, alcuni arrivano ai 5, ma già sui 6 ormai la deflorazione è un dato di fatto storico praticamente. Non si conoscono vergini di 7 anni, ci sono donne, ragazze di 8 anni che già hanno una loro storia passata, qualche tormentata magari. Insomma, no? A 9 anni non ne parliamo, insomma. Dunque, uno vuole che la propria donna sia libera, libera, libera sessualmente, ma se è troppo libera, attenzione, questo è il punto, la cosa è disturbante, perché se è troppo libera non ti dai il piacere della violazione, che invece un maschio nel suo immaginario erotico ha bisogno fondamentalmente, perché sennò com'è che si eccita un maschio? Si eccita se c'è un teatro della sessualità, è una cosa su cui io parlo da anni, del teatro della sessualità, in cui uno fa una parte, l'altro fa un'altra parte, ma se si immagina di poter avere un rapporto con un... bisogna andare là dietro, mi spiace perché in realtà mi piace il contatto con... come Berlusconi, con la folla, mi piace... Anzi, sapete cosa vi dico? Mi piacerebbe fare, in questo momento che sto facendo una lezione su Flaubert, mi piacerebbe fare un discorso del predellino. come lui ha chiamato la fondazione. Quindi mi piacerebbe fare il discorso mettendo la gamba qua sopra, per esempio, no? Quindi parlare in questo modo berlusconiano, insomma. Quindi sono costretto a stare qui dietro, vedete le costrizioni, eh? I pudori della depravazione sono quelli che sono maggiormente allicenti, ma naturalmente per un'operazione di questo genere, per un'operazione di questo genere, bisogna avere fantasia adeguata. E lui, questo è il fatto, lui fantasia adeguata non ce l'ha, e quindi deve ricorrere ai vecchi amori, e questa è una tragedia di tutti, quando per emozionarsi sono costretti a ricorrere ad amori passati o a immagini diverse, lontane. Capite? E quando uno comincia a ricorrere a immagini lontane, è finita, perché perdi il contatto fisico con la persona. Mi ricordo che il mio barbiere diceva che la prima notte di nozze, a quell'epoca in cui c'erano ancora le nozze, c'erano ancora le notti, adesso sono scomparse tutte le notti, le nozze, tutte, eccetera, era così poco attratto da sua moglie che aveva un giornaletto pornografico a cui attingeva nelle sue fantasie, che era poco naturalmente gentile e delicato nei confronti della signora, naturalmente. Ecco, ma quello che invece è molto consueto è che uno abbia un fidanzato, ma pensi al fidanzato precedente. Questo è molto consueto. E l'immagine del fidanzato precedente fa sì che il fidanzato attuale tieni più conto. If you know what I mean, è chiaro? Non ne tieni più conto e quindi ti servi dell'altra persona, della persona attuale, per una sorta di lunga, estenuante masturbazione psicologica. Perché la persona che hai on the spoon non ti piace sufficientemente. E la persona a cui ti riferisci può essere non necessariamente il fidanzato, ma un'immagine del tuo immaginario erotico, uno zio, un professore. Io infatti sono entrato nell'immaginario in tanti anni in qualche modo. Un'oscura studentessa sposata, fiorente, di grotta ferrata, che però pensasse, cosa naturalmente, che io non so come fare con questo cazzo di microfono. Questa è la realtà dei fatti. Questa è la realtà dei fatti. Perché io vorrei stare più avanti. E basta! Pensa se entrasse la matta adesso. Avrebbe ragione di dire, ma che c'ha la dama? Avrebbe ragione di dire. Andiamo avanti. Io non posso parlare di qua. Mi dica il suo parere, perché io vedo in lei una tecnica. Vedo, no, ma io vedo in lei un po' troppa, questo è un suggerimento prezioso. Questo mi pare una cosa meravigliosa. Dunque, allora lei propone il concetto dell'attorcigliato, no, e provare a scioglierlo, però non abbiamo tempo. Un'altra volta però lo fa, ma credo che abbia ragione. Vedi che come sempre lei mi dà l'imbeccata giusta. Vede? È preziosa questa ragazza, è insostituibile. Proviamo a parlare da questo punto qui. Vediamo il capitolo 34, che poche righe dopo comincia con «Elle sonna pour avoir un verre d'eau». Allora, ci siamo? Poche righe dopo. Lei suonò, siamo con la Lambrose, lei suonò per avere un bicchiere d'acqua, e prese un sorso e poi lo rimandò indietro. Che meraviglia, ma io queste cose qui non... Lo rimandò indietro il bicchiere d'acqua, è una signora, capito? Tutte i suoi. E lui, e poi si lamentò che la si servisse orribilmente. Al fine di divertirla, lui si offrì come domestico, dicendo che era capace di dare i piatti, di spolverare i mobili, di annunciare gli ospiti, di essere un cameriere o piuttosto un paccio, sebbene la moda fosse passata. Avrebbe voluto star dietro la sua carrozza con un cappello di piume di gallo. E come vi seguirei a piedi maestosamente e portando in braccio un cagnolino. Siete allegro, disse Madame d'Ambrose. Ma non è una follia, riprese lui, considerare tutto seriamente. C'è già abbastanza miseria della vita, senza che uno debba inventarsene della nuova. Niente meritava la pena di un dolore. Madame d'Ambrose sollevò le sopracciglia in maniera di vaga approvazione. Questa parità di sentimenti spinse Frederick a maggiore arditezza. I suoi errori d'un tempo gli avevano dato ora una certa chiaroveggenza e proseguì. I nostri nonni vivevano meglio. Perché non obbedire all'impulso che ci spinge? L'amore, dopo tutto, non è una cosa così importante. Ma è morale quello che voi dite? Ella si era rimessa a sedere sul sofà e lui si sedette al bordo contro i suoi piedi. Ma non vedete che io mento? Perché per piacere alle donne bisogna mostrare una noncuranza di buffone oppure furore di tragedia. Lei si burlano di noi quando diciamo che le amiamo, così, semplicemente. Io trovo queste iperbole in cui si divertono una sorta di profanazione dell'amore vero, di modo che non so come esprimerlo, soprattutto davanti a quelle che hanno molto spirito. Lei lo considerava con le ciglia socchiuse e lui abbassava la voce chinandosi verso il suo viso. Sì, voi fate paura, io vi offendo forse... Scusate, non volevo dire tutto questo, non è colpa mia, voi siete così bella. Che cosa può fare chi è alle strette in una dichiarazione sentimentale, soprattutto perché il sentimento non ce l'ha? Fa il buffone. Perché capisce che facendo il buffone potrà piacere, questo vale per l'uomo naturalmente, può valere per la donna, ma soprattutto per l'uomo. E allora finge di essere un servo. Finge di essere un servo e dice che può seguire la carrozza di lei con un cameriere, avendo un cappello di piume di gallo per farla ridere. E tenendo fra le braccia, come un cavalier servente, tenendo fra le braccia un cagnolino. E allora lei dice, ma voi siete allegro, ma l'allegria, noi sappiamo, è ambigua. Chi ha presente una delle cose più grandi della storia, della cultura, del mondo? Pensate con quale enfasi lo sto dicendo, che è Amleto. Ricorderete che Amleto si finge allegro, ma in realtà nel sottilissimo movimento di Amleto si finge allegro per disperazione, perché non c'è un'altra strada, e noi stessi nella nostra vita quotidiana in molti casi il dolore, la disperazione, l'abbattimento è tale che ci fingiamo allegri, perché alle domande più banali, come stai? Stai bene? Che cosa si risponde? È chiaro che quando uno sta male non risponde mai la verità, perché capisce, non risponde mai la verità se vede degli spettatori che siano naturalmente insensibili, e allora dice bene, benissimo, ma anche se dicessi la verità, dicessi che stai male, a che servirebbe? E allora l'allegria diventa un'affettazione di fronte a donne che non capiscono, che vogliono solo il corteggiamento. Guardate come Madame d'Ambrose è diversa sia da Madame Arnoux che è una specie di totem intoccabile, e sia la cosa netta naturalmente. Che cosa muove Madame d'Ambreuse? La noia. La noia di una vita in cui ha tutto, anche la bellezza. Che cosa muove Frédéric verso Madame d'Ambreuse? Un desiderio di vanità, una vanità. Cioè, se riuscirà a conquistare questa donna così importante, sarà per lui un grande orgoglio. Un grande orgoglio. Ma nessuno dei due ha un sentimento. E in quest'ultima parte del romanzo, quindi vediamo che c'è un qualcosa di perfino più tragico che il parlarsi senza essere ricambiato, come il caso di Madame Arnoux per tanta parte del romanzo, o il caso di Rosanette, che lui si sente di disprezzare. Il terzo caso, il più grave, il più difficile, è quando si finge di amarsi. Si finge. Ma nessuno dei due ama. E ognuno è mosso da interessi più o meno sordidi. Quando a un certo punto lei diventerà, lo vedremo tra poco, ricchissima, il suo interesse diventa molto preciso, è quello che un uomo ha nello sposare una donna ricca. E quanto a lei, lui è giovane, è bello, è uno svago, ma chi dei due ama? E dice Flaubert, nulla è peggio che guardare negli occhi della persona che diciamo di amare l'assenza di amore non solo da parte della persona, ma da parte nostra, perché allora è una commedia, è insostenibile, quanto può durare? E lui cerca però di essere sincero, pur facendo il buffone, cerca di essere sincero e dice, ma guardate, ma forse non è vero che bisogna considerare tutto senza serietà, che niente valga la pena. Questa frase viene detta verso la fine del romanzo, ma se vi ricordate all'inizio, Frédéric era estremamente serio, perché voleva fare il pittore, aveva un album sotto il braccio, voleva fare lo scrittore, l'amico dell'Orvier voleva fare il giornalista, voleva avviarsi alla politica, avevano degli ideali, tutto era serio. E adesso niente più serio. Non vale la pena cercare di aver successo coi libri, con altro. Non vale la pena il sesso, se non come sfogo momentaneo. L'amore è irraggiungibile. La comunicazione, ancor più la comunicazione fra due anime. E allora non vale la pena, come suggerisce Nietzsche, di scherzare, di ballare, per così dire, sul disordine umano. C'è una bellissima frase di Nietzsche, mi sta venendo in mente in questo momento. La ricorderete perché è spesso scritta sulle magliette che si vendevano a volte sulla spiaggia o d'estate. Non me la ricordo esattamente, ma io sono una stella che balla su, dice una cosa, il concetto è questo, che balla sul disordine del mondo, insomma. Ma certamente quest'idea della danza sul nulla è un'idea di Nietzsche fondamentale, l'idea più moderna possibile. Sono queste le cose che fanno paura ai detentori dell'ordine. Sono queste le cose che fanno paura, no? E sono queste le cose che rimangono inaccettabili, inaccettabili. E insomma, come vi ho avuto modo di accennarvi, insomma, il nemico in questo secolo per l'ordine capitalista e per l'ordine religioso, per entrambi, è stato il comunismo, ma da 30-40 anni. Il comunismo è un fatto che non esiste più, il fatto che esiste in due luoghi della terra, insomma, due luoghi assurdi, anomali, la Corea del Nord, Cuba, insomma, non significa assolutamente niente, evidentemente. E quindi il grande nemico dell'ordine, come vi ho detto tante volte lungo questo corso, quindi il nemico della società capitalistica, della società religiosa, naturalmente. Il nemico che cos'è? È il relativismo. Il nemico è il nichilismo. Quando qui dice Frédéric, Ma che cos'è che bisogna prendere seriamente? È perché lui ha cercato di prendere tutto seriamente. Ed è stato battuto. Ed è stato battuto. Cerca di attirare verso queste idee anche lei, ma lei è naturalmente persona senza pensiero. Anche questo è interessante. Cosa vi ho detto? Lei è persona senza pensiero. Madame Arnoux ha dei pensieri solidi, suoi, bigotti, ma ha dei pensieri. Sono pensieri di cui lui è affascinato, ma certamente non capisce l'animo di lui, non gliene importa nulla dell'animo di lui. È seduta su se stessa, per così dire, Madame Arnoux. Rosanette non ha sedia su cui sedersi, svolazza, non comunica, espone se stessa. E quanto Madame d'Ambrosio, che potrebbe essere, per cultura, età, potrebbe essere una persona che comunica con lui, neanche questa comunica con lui. Se noi vediamo queste tre storie dal punto di vista della comunicazione, vediamo proprio che il punto di contatto e questa assenza di comunicazione nel primo caso Madame Arnoux, nel secondo caso e anche naturalmente in questo. Lui vorrebbe disperatamente comunicare, no? In fondo, se ben ci pensiamo, il far l'amore con una persona senza comunicare è una delle beffe più tragiche del mondo, più tragiche del mondo. Quello che uno vuole è comunicare. Uno può comunicare più in una condizione di impotenza sessuale assoluta, di frigidità conclamata, che in una condizione di perfetta corrispondenza ginnica. Invece due persone, c'era una cosa che mi viene in mente di citarvi, un libro che forse avrete letto, è un libro molto famoso di Hemingway, scrittore che io non amo, ha fatto uno o due cose buone e basta, ma insomma uno scrittore mediocre, ma il libro aveva alcune cose belle. Si chiama A Farewell to the Arts, addio alle armi, ed è un libro sulla prima guerra mondiale, una storia d'amore, e l'ho letto, non mi ricordo nemmeno i dettagli, nulla, assolutamente, ma non ha importanza che non mi ricordi nulla, perché non importa mica ricordarsi bene certe cose tutte, come vi ho detto più volte, certo se devi fare l'esame devi ricordarti bene tutto, ma sì, non permettiamo, mi ricordo l'atmosfera dell'educazione sentimentale, mi faccio un gesto che quello. Lui era un impotente, mi pare che finisse così il romanzo. O era castrato, aveva avuto qualche. Quindi i due erano destinati a essere infelici insieme. E tuttavia era un contatto profondo che avevano. Leggete la fine di Addio alle armi. E allora capite che la comunicazione è tutto. E due persone che comunichino ma non si possono mai incontrare, ma va bene lo stesso, soffriranno di più. Lui dice, io sono costretto a fare il buffone. Sono costretto a fare quello che mi stanno venendo dei ricordi shakespeariani. Cosa dice? Cosa dice Amleto a un certo momento? I am only your jig maker. Sono solo il vostro buffone. Sono solo il vostro buffone. È costretto a fare il buffone. Lei osserva lui sedotta da questa sua gentilezza, ma naturalmente non capisce. Voltiamo uno, due pagine, tre pagine, quattro, siamo arrivati al capitolo 4 e poco dopo, alla pagina dopo, leggete il capoverso che dice la plus esquise peut-être était de contempler Madame d'Ambrosio. 403. Il titolo dell'altro. Aspetta, Il titolo dell'altro capitolo è L'amore non è importante. Il titolo di questo 35 è Voleva un grande amore. si trova nel salotto di Madame d'Ambrosio. E pensate cosa vuol dire trovarsi per un giovanotto in un salotto in cui tu sai che la signora del salotto, la signora importante del salotto, mi seguite? Ci siamo? La signora importante del salotto è la tua amante. Assume un atteggiamento di grande serietà questa signora davanti a tutti e tutti la si genuflettono davanti a lei. Ma lui sa che con lei ha dei rapporti che nessun altro ha. Sentite questo passo. Leggiamo semplicemente l'inizio di questo. La più squisita delle dolcezze che lui provava, questo dice, la più squisita di queste dolcezze era forse quella di contemplare Madame d'Ambrosio fra parecchie persone nel suo salotto. La convenienza dei suoi modi lo faceva sognare ad altri atteggiamenti suoi. Mentre conversava con tono freddo, egli si ricordava le sue parole d'amore balbettate e tutti i rispetti per la sua virtù lo dilettavano come un omaggio che si volgesse verso lui stesso. E aveva talvolta voglia di gridare: ma io la conosco meglio di tutti voi, lei è mia. Il loro legame non tardò a essere una cosa convenuta, accettata. Madame d'Ambrosio, durante tutto l'inverno, portò Frédéric con sé nella società. E arrivava quasi sempre lui prima di lei e la vedeva entrare a braccia nude, il ventaglio in mano, le perle nei capelli. Si fermava sulla soglia, l'architrave della porta la circondava come una cornice, come un quadro, no, una cornice. E aveva un leggero movimento di indecisione, strizzando poco poco le palpebre per scoprire se lui era lì. Poi lo riaccompagnava a casa nella sua carrozza. La pioggia frustava i finestrini, i passanti come ombre si agitavano nel fango e, stretti l'uno contro l'altro, scorgevano tutto ciò confusamente con uno sdegno tranquillo. Con pretesti diversi, egli restava ancora una buona ora in camera sua. Era per noia soprattutto che Madame d'Ambrosio aveva ceduto, ma quell'ultima prova non doveva essere perduta. Lei voleva un grande amore e si mise a colmarlo di adulazioni e di carezze. L'amore vanità consiste in questo, che se la persona è una persona nota e importante, quando noi andiamo in società a esibire questa persona, naturalmente ci gratifica. E a questo punto si possono avere atteggiamenti diversi nei confronti della propria donna, secondo che la nostra donna sia importante, nota, famosa, oppure sia nessuno. E gli atteggiamenti sono molto diversi. Se è importante, allora uno la esibisce così come si esibisce una Maserati o una Rolls Royce, e tutti la guardano con stupore e ammirazione, la fuoriserie, e noi pensiamo fra noi: voi la ammirate, ma questa è la mia proprietà. Oppure c'è l'altro atteggiamento, se la donna non è nessuno. Ed è quello naturalmente che ha infinitamente più a che fare con l'amore, piuttosto che il primo. E allora io esibisco questa persona che non è nessuno, che è tenera e piccola e che ho inventato io con la mia immaginazione. E che per nessuno di voi potrà mai essere importante come per me. Questo è l'amore vero. Ho avuto modo di ricordarvi, a proposito non dell'amore di un uomo per una donna, ma di un padre per una figlia, una frase di un film macho in realtà, che vidi moltissimi anni fa. Il regista era abbastanza bravo, era Duccio Tessari, un regista che allora faceva dei western e poi faceva anche questo filmaccio, sono quei film notturni che c'erano una volta alla Rai, adesso anche questi sono scomparsi. E questo filmaccio raccontava la storia di un sequestro di persona. Ve l'ho raccontato mai questo? Sì? Però ripeto in una parola, era una donna che veniva, una ragazza che veniva sequestrata e poi veniva bruciata viva. Era una ragazza alta, grossa, con degli handicap probabilmente. E poi la fine del film, dire che è cruenta è poco, però insomma a distanza di tanti anni me lo ricordo, ma è orrenda, un film dell'orrore da questo punto di vista. E lui però, il protagonista bravissimo, che era l'attore Raff Vallone, uno dei migliori attori di teatro che abbiamo avuto in Italia, lì prestato al cinema, diceva, il personaggio rivolto ai banditi, agli assassini, che dicevano, ma questa era una donna... balbettavano, era una donna mostruosa, era una ragazza handicappata, e lui diceva una cosa che mi è rimasta in mente e che riguarda l'amore di un padre per una figlia, ma può tranquillamente, tranquillissimamente riguardare un amore di un uomo per una donna. Diceva, ma a me va bene così, a me andava bene così. E quindi ci sono delle donne che portiamo in società che non sono nessuno, o anche dei partner, e portiamo in società che non sono nessuno, e però ci siamo legati. Ecco, questo. E lui qui invece è nel caso A, per così dire. Cioè va lì e la esibisce come appunto fosse la Maserati o la Rolls Royce, e vede che tutti lo invidiano perché è amico, amico naturalmente in un senso molto pregnante. E lui guarda una cosa, poi continuiamo naturalmente l'analisi successivamente, guarda che ha questi modi così contenuti, lei in società, no? Ma lui l'ha vista nell'intimità, lui non l'ha vista con il cappello in testa, lui l'ha vista con la biancheria intima, senza la biancheria intima. Lui l'ha vista non che faceva la gran signora, ma che si apriva nel corpo per il coito, che balbettava parole d'amore, e quindi questo possesso lo inebria, ma non può non rilevare, quasi subito, che l'amore non è questo, che l'amore non è possesso, è un'altra cosa. Fermiamoci qui. Un'altra cosa importante che volevo dirvi, una cosa importante da dire ancora, scusate, il corso finisce giovedì prossimo, cioè non questo, ma quell'altro.